2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 3 e 4 luglio 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile presto sul nostro sito internet. Vi ricordo, come sempre, al termine della nostra puntata sarà disponibile il file MP3 attraverso il servizio podcast. Quindi vi ricordiamo e vi consigliamo di abbonarvi gratuitamente a questo servizio. Ormai migliaia sono i nostri ascoltatori che lo hanno fatto e quindi che settimana dopo settimana possono scaricare anche automaticamente il file della nostra puntata. La scorsa settimana vi avevo parlato dei problemi di ricezione del nuovo iPhone 4. I siti web specializzati in tecnologia, soprattutto negli Stati Uniti, sono pieni di discussioni, commenti e molti si chiedono se si tratti o meno di un problema software o hardware. Nel primo caso la cosa si potrebbe risolvere, come promette la Apple, con un aggiornamento software disponibile entro poche settimane. Nel secondo caso le cose potrebbero essere più complicate. In tutti i modi, negli Stati Uniti sono già partite le prime cause collettive contro la Apple e l'operatore telefonico AT&T. Nonostante ciò, nelle prime ore di vendita l'iPhone ha venduto 1,7 milioni di pezzi, quindi oggi possiamo pensare che abbia superato ampiamente i 2 milioni e l'azienda ricorda che si tratta di un record assoluto per i prodotti con la mela morsicata. Firefox è diventato il browser di base per i dipendenti di IBM e la società ne incoraggerà l'uso anche da parte dei partner. IBM, che da tempo ha una strategia basata sull'adozione di software open source, ha detto di apprezzare Firefox per la qualità del prodotto, ma anche perché la Mozilla Foundation non appartiene ad alcuna società privata. Tutti gli altri programmi di navigazione sono invece prodotti da società che hanno un interesse particolare nell'affermazione del loro browser. Internet Explorer è della Microsoft, Chrome di Google, Opera della società omonima norvegese e Safari dell'Apple. Poi ci sono tanti altri prodotti, anche piccoli e a volte sconosciuti. Abbiamo più volte sottolineato che con la crescita dei servizi erogati via web, il programma di navigazione, quindi il browser, con cui si accede a questi servizi diventa sempre più importante. Quindi se lo si controlla una fetta importante del web. Dopo un mese di test, da ieri il sito del quotidiano britannico Times è a pagamento. Si tratta del primo grande giornale generalista europeo ad avere preso questa decisione e il mondo dell'editoria guarda con molta attenzione a questo esperimento. Times chiede una sterlina al giorno per leggere gli articoli del sito internet o due sterline per una intera settimana. Quindi il prezzo quotidiano forse è elevato perché è simile al giornale di carta, invece molto economico è sicuramente quello settimanale, due sterline per un'intera settimana. Da poche ore è in vendita l'indirizzo internet sex.com, considerato dagli esperti il più conosciuto su internet e anche uno degli indirizzi più preziosi della rete. Secondo la società tedesca Sido, scritto Sido, che l'ha messo in vendita per conto dell'americana Escom, il dominio offre al nuovo acquirente la possibilità di diventare subito numero uno del settore. Nel 2006 sex.com era passato di mano ad una cifra, pensate, vicina a 10 milioni di euro. Ma al di là di questo caso eclatante, che sicuramente fa discutere gli esperti anche i non addetti ai lavori, la cosa interessante è che esiste un mercato di compravendita di domini internet. Ne vogliamo parlare, vogliamo saperne di più da Nereo Sciutto, che è presidente di WebRanking, una società che si occupa di ottimizzare la presenza dei siti internet sul web. Bentornato a 2024. Grazie. Esiste dunque un mercato, al di là di questo caso, esiste un mercato tanto che ci sono addirittura delle piattaforme dove uno può comprare e vendere siti internet, un po' come fosse una eBay dei nomi a dominio. Sì, è una cosa interessante, nel senso che può apparire abbastanza strano, ma su internet, che è un grande mercato, diverse società private hanno inventato modelli di business molto particolari. Alcuni di questi, in particolare ad esempio Sedo, hanno lavorato per costruirsi una credibilità, come dici giustamente tu Enrico, come se fossero l'eBay della compravendita di domini. Chiunque ha a disposizione un dominio può fondamentalmente metterlo in vendita e grazie a questa piattaforma trovare acquirenti che anche dietro l'anonimato, dietro procedure molto ben costruite, possono presentare offerte o negoziare prezzi. Questo caso che ho citato di sex.com genera un valore, abbiamo parlato insomma di milioni di euro, un milione di dollari. Effettivamente un nome a dominio, quando è azzeccato, può valere così tanti soldi? È apparentemente strano pensarlo, però sì, è comunque sempre un mercato, nel senso che molto spesso lo vediamo un nome azzeccato, riconoscibile. Il vantaggio di sex.com è che è sia riconoscibile che corto, per cui i nomi corti, riconoscibili e semplici, soprattutto collegati come può essere parole chiave molto semplici come mutui o casa, possono essere facilmente riconoscibili e avere un alto valore, anche perché le società hanno dei modelli di business che riescono a far funzionare questo tipo di domini. E poi non c'è da dimenticarsi che Google è molto interessato e tende a promuovere più facilmente i domini che hanno all'interno del proprio nome qualche termine che venga effettivamente cercato. Su queste piattaforme abbiamo citato Sedo o Sido.com, che è forse la piattaforma più famosa, più nota, tedesca ma comunque internazionale. Su questo tipo di piattaforme si trova un po' di tutto, si trovano cose vecchie, addirittura anche persone che registrano oggi un dominio e da domani lo mettono in vendita, al netto del fatto che poi bisogna andare a vedere se questi nomi a dominio sono anche coperti da registrazione di marchio, eccetera, eccetera. Però nella maggior parte dei casi su queste piattaforme i nomi effettivamente sono liberi da qualsiasi vincolo. Ma che cosa si trova generalmente? Sì, si trova effettivamente di tutto, sia domini registrati per un'idea o per il semplice fatto che qualcuno abbia fatto alcune ricerche e scoperto che nomi abbastanza appetibili, o ad esempio relativi a prodotti o servizi nuovi. Ad esempio, ogni volta che una nuova tecnologia, lo vediamo nell'informatica, si fa strada, un certo numero di domini collegati con questa tecnologia o che contengono nel proprio nome un riferimento a questa tecnologia vengono registrati dai più veloci e poi effettivamente messi sul mercato, semplicemente perché queste persone, spesso privati cittadini, quindi persone normalissime o piccole aziende, non hanno un modello di business connesso con quel dominio, ma semplicemente sono stati un po' più veloci nel registrarlo e poi si aspettano di fare un profitto nel cercare di metterlo a disposizione del mercato quando sarà ora, quando anche le grandi aziende si muoveranno, si dovessero muovere per cercare di costruirsi un'immagine collegata con un dominio che abbia un nome appetibile. A volte succede addirittura un fenomeno molto strano e anche abbastanza divertente, per qualcuno, per altri triste, che domini che per qualche strano motivo, per quanto utilizzati, non vengono registrati o non vengono mantenuti registrati per un problema tecnico, scappano, ritornano sul mercato, vengono resi disponibili. Ci sono persone che stanno molto attente a questo tipo di domini che tornano pubblici, li riacquistano fondamentalmente al posto del primo registrar, perché fondamentalmente quello che magari le persone non sanno è che i domini si registrano, si paga una tassa ogni anno per poterli utilizzare, ma effettivamente non rimangono di tua proprietà a vita, cioè bisogna continuare ogni anno a mantenere una registrazione, a pagare una tassa fondamentalmente, per cui qualcuno molto scaltro riesce a prendere domini scaduti per errore e poi a cercare di rivenderli alla precedente entità che li aveva registrati. Quindi potremmo pensare che se qualcuno si dimentica di rinnovare coca-cola.com c'è qualcuno che è lì pronto per registrarlo. Può darsi, ci sono in questi casi dei piccoli servizi automatici che forniscono addirittura delle informazioni al mercato su quali sono i domini in scadenza, perché la scadenza di un dominio, della registrazione annuale del dominio è pubblica, per cui alcune persone che tengono d'occhio alcuni domini sotto scadenza verificano che il dominio venga effettivamente riconfermato, quindi ripagata la tassa o che qualcuno si dimentichi. Esatto. Sembra effettivamente incredibile anche che ci sia un grande business attorno a questo mercato. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Abbiamo naturalmente semplificato molto, ci sono delle procedure molto più complesse e anche un certo margine di sicurezza nel caso uno si dimentichi di rinnovare il pagamento della tariffa o dell'abbonamento per mantenere vivo il proprio sito internet. Una notizia che riguarda Google: prima di chiudere questa prima parte di 2024, il motore di ricerca acquisterà la società Ita Software, una società specializzata nell'organizzazione dei dati relativi al settore aereo, tra cui orari dei voli, disponibilità e prezzi. La tecnologia di Ita Software viene già utilizzata da siti come Bing Travel, TripAdvisor, Orbitz, Hotwire e Kayak e servirà a Google per creare nuovi strumenti per facilitare le ricerche online sui voli aerei. La cosa interessante e incredibile è la cifra che Google pagherà per questa nuova società, per questa acquisizione. Parliamo di, pensate, 700 milioni di dollari. Tra poco parleremo di e-commerce, una versione particolare di commercio elettronico invece della I di electronic, di commercio elettronico. Quello che viene definito e-commerce ha una M che sta per mobile commerce, quindi il commercio fatto via telefonino. Un settore che sicuramente crescerà molto nei prossimi anni, sul quale stanno arrivando molti investimenti. Di questo parleremo tra poco 2024. Adesso una notizia che riguarda il settore spaziale, riguarda forse uno dei programmi più vasti nella storia dello spazio. Slitta di nuovo la data dell'ultima missione dello Shuttle. Sapete che il programma Space Shuttle prevede ancora due voli e poi le navette andranno in pensione. L'ultimo volo è stato riprogrammato per il 26 febbraio 2011. L'ultima navetta a volare sarà l'Endeavour e a bordo ci sarà anche l'astronauta italiano Roberto Vittori. La prossima missione invece si svolgerà il 1 novembre. Questo naturalmente se i programmi anche della preparazione di tutti gli oggetti che dovranno essere spediti per la Stazione Spaziale Internazionale, se tutti questi programmi verranno rispettati. Adesso, come vi dicevo, parliamo di commercio elettronico, ma della versione mobile dell'e-commerce. Con la diffusione degli smartphone stiamo vedendo un fenomeno che ancora agli inizi, i numeri sono ancora molto piccoli, ma in crescita molto interessante, un fenomeno che gli esperti definiscono come M-commerce, e quindi la M sta per mobile commerce. Saluto Stefano Colonna, che è uno dei fondatori di Movilo Shop. Benvenuto a 2024. Grazie. Potremmo dire bentornato a 2024. Abbiamo già parlato di un'altra idea che a te e ai tuoi colleghi era venuta un po' di tempo fa. In questo caso state parlando di, come dicevo prima, di M-commerce. Beh, di fatto la vostra è una piattaforma per la creazione di siti per il commercio in mobilità. Parliamo subito di questa idea, poi parliamo del mobile commerce, perché ci sono tutta una serie di cose e considerazioni da fare interessanti. Che cos'è Movilo Shop? Sì, è giustissimo quello che hai detto. È una piattaforma che ha come obiettivo, diciamo, quello di essere facilmente usabile da chi vuole vendere dei prodotti via mobile e, diciamo, non è un esperto di tecnologia e non sa tanto come muoversi. Per cui questa piattaforma lo aiuta a crearsi il proprio negozio mobile, ovviamente ottimizzato per tutti i telefonini. Quelli più belli, più evoluti lo vedranno in maniera più eclatante, gli altri lo vedranno in maniera magari più limitata, però perfetto, diciamo, su tutti i telefonini. Lo aiuterà passo per passo a caricare i suoi prodotti, mettere i suoi prezzi, i suoi sconti, le immagini dei prodotti, le descrizioni, e poi lo aiuterà a, diciamo, configurare la fase di come vuole accettare i pagamenti, per cui se è più legato all'e-commerce, magari pagamenti con carta di credito e invio del prodotto a casa. Se è più legato, se è un negozio più fisico, la persona appunto riceve un codice univoco e l'indirizzo del negozio dove andare a pagare e a ritirare la merce. Abbiamo detto una parola importante: questa è una piattaforma, quindi non è un'applicazione, visto che oggi parliamo tantissimo di applicazioni quando parliamo degli smartphone. No, è una piattaforma internet, per cui bisogna andare sul sito moviloshop.com con la Y, dove quello che viene definito merchant, cioè quello che vuole vendere i propri prodotti, può crearsi il negozio, e lì appunto con questa piattaforma si crea il negozio ottimizzato per telefonino, che adesso è un sito mobile e nei prossimi mesi avrà anche invece delle applicazioni per iPhone e per Android, in modo che il negozio sia ottimizzato per tutte quelle che sono le varie tecnologie mobile. Dicevamo prima che l'e-commerce è una cosa un po' diversa, o comunque tu dici, ma non solo tu, alcuni esperti dicono che l'e-commerce è diverso dall'e-commerce. Alcuni non si sono ancora abituati all'e-commerce, figuriamoci all'e-commerce. Ma per quale motivo voi dite che il mobile commerce, quindi le vendite fatte attraverso lo smartphone, attraverso il telefonino, sono una cosa un po' diversa rispetto alle vendite fatte su un sito internet in cui io vado, magari sono seduto in tranquillità e posso fare una scelta anche lunga un po' di tempo, un po' di ore? Esattamente questo è il punto. Il mobile commerce è molto più legato all'emotività, al luogo dove mi trovo, all'acquisto di impulso. Per cui è difficile pensare che su un sito di mobile commerce si possa trovare migliaia di prodotti, grosse descrizioni, grossi commenti degli utenti, perché navigare e cercare informazioni su uno schermo molto piccolo diventa difficoltoso e, diciamo, perdo la pazienza velocemente. Frustrante, diciamo. Esatto, per cui è diverso per quello. Gli acquisti sono anche molto più legati all'impulso, per cui nessuno comprerà mai un televisore da 1000 euro via mobile o un viaggio da 3 settimane, ma magari un pacchetto weekend con un avviso il giovedì via SMS che ti dice: compra il pacchetto weekend col 20% di sconto per le prossime, offerta valida solo per le prossime 2 ore. Questa è una cosa tipica del mobile, perché ricevo l'offerta, ci penso, clicco e sono già a metà del processo di acquisto. Un'altra cosa interessante è che voi siete una società italiana, ma in questo caso il vostro prodotto è, come del resto tutte le cose che capitano su internet, rivolto al mondo. Voi poi in modo particolare mi dicevi che avete alcuni clienti, anzi forse più clienti all'estero che in Italia. Sì, assolutamente. Giusto per dire qualche cosa che sta accadendo in questi giorni, abbiamo un negozio che vende caffè a Vancouver, settimana prossima abbiamo un partner che partirà con una campagna in Ecuador come test per il Sud America, abbiamo un negozio di fiori a Reading in Inghilterra che vende fiori sia via e-commerce e adesso anche via mobile commerce, abbiamo un altro negozio che vende capsule di caffè che sta in Ungheria, per cui... Ecco, la cosa diversa tra questi paesi qual è? Cioè sono i prodotti e i servizi che vengono venduti, sono ad esempio i sistemi di pagamento, che cosa cambia? Far la lista magari è lungo, però... No, però è corretto dire i sistemi di pagamento. Da un lato è l'abitudine alla gente a pagare in maniera digitale, per cui ci sono paesi più evoluti come ad esempio gli Stati Uniti e il Canada che hanno molta confidenza con le carte di credito, e altri invece, come anche l'Italia, appunto, sono più paesi legati al contante. Soprattutto ognuno ha dei modi di pagamento diverso, ogni nazione, per cui noi cerchiamo di integrare con i partner locali diversi sistemi di pagamento. Mi viene in esempio in mente, ad esempio, il nostro partner russo che ci sta facendo integrare dei chioschi, perché ci dice che la gente in Russia non paga con carta di credito ma paga attraverso dei chioschi dove inseriscono i contanti chiudono così la transazione dell'e-commerce. Cioè, quindi come funziona? Io ricevo un codice? Ricevono un codice, inseriscono questo codice con i contanti in questi chioschi e terminano la transazione come fosse una sorta di bancomat. Questo è solo un esempio per dire che ogni nazione ha delle caratteristiche di pagamento, per cui dove noi dobbiamo adattarci per permettere a chi vuole vendere, quindi ai merchant locali, di poter incassare i soldi. Senti, se io ho un piccolo negozio, perché immagino che chi si rivolge a un servizio come il vostro sia un piccolo o medio, o anche i grandi. Solitamente i grandi negozi soprattutto fanno per conto proprio, soprattutto quelli che hanno già l'e-commerce, magari o se lo fanno in casa o altrimenti vogliono delle cose sviluppate ad hoc per loro. Quelli piccoli e medi invece hanno bisogno più di piattaforme, appunto, come si dice, self service, cioè dove fanno tutto. Ecco, quindi la domanda è: se io sono un piccolo negoziante che magari addirittura non ho nemmeno un sito di e-commerce, ma voglio fare un tentativo anche per vendere via telefonino, quindi via mobile, vengo e il vostro servizio me lo posso costruire in modo autonomo, addirittura anche col servizio di pagamento? Assolutamente sì, l'obiettivo nostro è proprio questo e farlo fare anche in maniera veloce e facile. Dire i piccoli e i piccolissimi è correttissimo, perché la maggior parte dei piccoli non ha un sito di e-commerce proprio perché è troppo complicato da avere da gestire, magari ha pochi prodotti che non andrebbero bene in un sito di e-commerce, ma magari ha quei 5-10 prodotti o semplicemente ogni giorno vuole vendere il prodotto del giorno, e allora il mobile commerce, che è più semplice da fare e da gestire, è molto più adatto quindi per i piccoli. Una delle cose di cui si parla spesso quando si parla del mobile commerce e del mobile payment sono tutti i servizi di geolocalizzazione. Insomma, sappiamo che tutti gli smartphone hanno la capacità di sapere dove si trovano, sia tramite la rete di telefonia sia tramite il GPS. Spesso si dice, vedremo in futuro, servizi di pubblicità geolocalizzati, ad esempio, che ti offrono il coupon per entrare nel supermercato tal dei tali. Credete voi in queste cose? Questa può essere un'evoluzione del mobile commerce oppure poco? Questa è assolutamente una parte anche importante, bisogna solo capire come gestire la privacy, quindi non è il concetto della persona che cammina in una via e riceve 200 messaggi da ogni negozio cui passa a fianco, ma è lui che tramite il suo telefonino, che sa dov'è, può dire: voglio ricevere le promozioni dei negozi che ho a 500 metri, a un chilometro di raggio da dove sono, e allora il sistema gli fornisce quelle informazioni, magari inclusa anche pubblicità localizzata. Il mobile, essendo, come dicevamo prima, molto emotivo e molto d'impulso, deve sfruttare queste caratteristiche senza abusarne, perché altrimenti diventa un po' controproducente. Non ti ho ancora fatto una domanda che probabilmente ad alcuni è già venuta alla mente, ma voi che cosa ci guadagnate? Oppure come fate a guadagnarci con questa piattaforma? Ci sono 30 giorni completamente gratuiti per provare la piattaforma, quindi uno può crearsi il negozio, personalizzarlo come vuole e non paga nulla. Finiti i 30 giorni, se decidi di iniziare davvero a vendere, per abilitare la parte di pagamento devi sottoscrivere un abbonamento. L'abbonamento costa, quello più basso, la fascia più bassa costa 10 euro al mese, quindi molto molto poco, più una percentuale sulle transazioni, per cui chi vuole iniziare spende 10 euro al mese più semplicemente una percentuale sul venduto, che se vende è contento di pagarla, se non vende non paga niente, e quindi ha modo pian piano, mese dopo mese, di crearsi il suo negozio, crescere, iniziare a fare promozione, vendere. Il nostro obiettivo quindi è costare poco e accompagnare le persone a crescere nelle loro vendite. Voi siete italiani, è una domanda che ho fatto anche ad altri che propongono nuovi servizi in un mercato che è globale, non è italiano. Un'idea così non è venuta a nessuno all'estero? È una cosa molto strana, ma il mobile in Italia è molto forte. Da noi ci sono più telefoni che esseri umani addirittura, per cui mentre solitamente, se parliamo di internet, paesi come gli Stati Uniti sono molto avanti rispetto a noi, se parliamo di mobile è un po' il contrario, per cui parlando ad esempio con diversi partner in Canada e negli Stati Uniti, stiamo entrando abbastanza facilmente anche, diciamo, ad avere accordi con loro, proprio perché queste idee, questa progettualità mobile, questa capacità di capire come sviluppare software e piattaforme per mobile è più presente da noi, in Europa, particolarmente in Italia, che non negli Stati Uniti. Stefano, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, insomma in bocca al lupo per questa idea. Grazie mille a voi. Seguiteci ogni settimana, siamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, oppure ci trovate anche online. Alla fine della nostra trasmissione, pochi minuti dopo, troverete il file MP3 della nostra trasmissione attraverso il servizio podcast di Radio 24. Andate sul nostro sito internet www.radio24.it, cliccate nella sezione podcast e poi su 2024. Tutto molto semplice. Se poi vi abbonate attraverso software particolari, potete iscrivervi gratuitamente al nostro servizio. In questo modo potete scaricare facilmente, settimana dopo settimana, anche in maniera automatica, il file MP3 della nostra trasmissione. Per tutto ciò ringraziamo naturalmente i nostri tecnici. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica di 2024. Molto semplice, 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini e come sempre vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. Abbiamo parlato del mobile commerce, del quale molti esperti prevedono un forte sviluppo per i prossimi anni. Del resto i primi segnali sono quelli che ci ha dato il mercato delle applicazioni per smartphone, soprattutto per l'iPhone, ma adesso anche il mercato delle applicazioni per Android sta crescendo con numeri molto interessanti. L'attesa è che si sviluppi parallelamente anche un mercato di prodotti che vengano acquistati attraverso il telefonino, quindi prodotti fisici. Naturalmente, perché si affermi un mercato di questo tipo, è essenziale, è importante che si sviluppino sistemi di pagamento semplici, veloci e affidabili. E in questo caso, quando il pagamento viene fatto dal telefono, dal telefonino in movimento, parliamo di mobile payment, quindi pagamento attraverso il telefono in mobilità. Dal 1 luglio per i cittadini finlandesi l'accesso ad internet è un diritto stabilito dalla legge. Il Ministero per le Comunicazioni finlandese afferma infatti che una connessione a banda larga in alta qualità ad un prezzo ragionevole è un diritto elementare. Tutti i 26 operatori presenti nel paese, definiti come fornitori di un servizio universale, dovranno essere in grado di servire ogni abitazione residenziale o un ufficio con una velocità di download dei dati di almeno un megabit al secondo, una velocità naturalmente bassa, ma questo è un diritto esteso a tutti. C'è però un dato fondamentale da citare che, potremmo dire, ridimensiona in parte la notizia. Secondo fonti dello stesso ministero, la quasi totalità delle abitazioni residenziali in Finlandia rispetta già le nuove direttive adottate, quindi la definizione di questo principio è sicuramente significativa, ma la nuova legge è già stata applicata da tempo nei fatti. È invece interessante sottolineare che la Finlandia ha da tempo stabilito che il livello minimo di una connessione a banda larga a partire dal 2015 sarà di 100 megabits al secondo, quindi da un megabits per tutti, un diritto per tutti, si passerà a 100 megabits al secondo, e qua stiamo parlando di velocità decisamente più elevate. Parliamo spesso della necessità di avere internet a banda larga non solo in casa o in ufficio, e purtroppo molti ancora non ce l'hanno, ma anche in movimento, mentre ci troviamo ad esempio su un mezzo di trasporto. Beh, sicuramente uno può con il proprio computer o con un altro strumento essere collegato tramite la rete di telefonia mobile e anche con le chiavette USB che oramai vengono vendute a prezzi molto competitivi. Ma finora il mezzo dove più difficilmente ci si può collegare ad internet è l'aereo. Bene, negli Stati Uniti i servizi di connettività a bordo degli aerei stanno crescendo a doppia cifra, potremmo dire, usando anche un gioco di parole, stanno decollando. Oggi si contano circa un migliaio di velivoli dotati di hotspot Wi-Fi a bordo che dovrebbero raddoppiare entro la fine dell'anno, con un giro d'affari che dovrebbe passare dai 7 milioni del 2009 ai 95 milioni di quest'anno, quindi un mercato che sta crescendo molto, e sicuramente anche in questo caso tutti gli smartphone di cui molti sono dotati, o comunque anche i computer portatili, i tablet e tutti gli altri aggeggi che hanno una connessione Wi-Fi stanno contribuendo alla richiesta di questi servizi. Ora ci occupiamo di videogiochi. Dopo mesi di risultati non molto brillanti, ci sono segnali di ripresa anche per il settore in Italia. Ne parliamo con Gaetano Ruvolo, che è presidente dell'AISVI, l'associazione che raggruppa l'industria del videogioco in Italia. Ruvolo, benvenuto a 2024. Buongiorno, grazie a lei. Partiamo proprio da qualche numero. Ci sono in effetti alcune indicazioni positive. Quanto positive all'interno di uno scenario che ancora per l'economia non riserva numeri molto gradevoli? Diciamo quello è proprio il dato più positivo, il fatto che in uno scenario generale di ripresa che non c'è o se c'è molto lenta, i primi 5 mesi del 2010 hanno registrato un dato di crescita del mercato videogiochi del 6.9%, quindi 7% rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso. Quindi già semplicemente essere, diciamo, di nuovo in crescita per il nostro mondo è già un dato molto positivo. Senta, se guardiamo all'Italia, quali sono i segnali che lei vede, insomma, al di là di questi primi numeri? Beh, intanto il fatto che rispetto ad altri paesi europei i primi dati stanno uscendo, qui siamo all'IDEF a Cannes, alla fiera dei videogiochi, quindi che riguarda soprattutto Italia, Francia, Spagna, rispetto agli altri territori, quindi Francia e Spagna, Francia registra un dato negativo, quindi è in calo rispetto all'anno scorso, l'Italia è in positivo, quindi già questo è buono. Poi il dato positivo sono le console da casa, che hanno registrato una percentuale di crescita enorme, a volume il 34% rispetto all'anno scorso e a valore il 15%, e il software sempre per le console da casa con una crescita del 16% a volume e del 24% a valore. Questo vuol dire che il mercato videogiochi in Italia è ancora abbastanza vitale e soprattutto è ancora possibilità di crescita, cosa che noi del resto ci aspettavamo. Nonostante questi numeri, voi avete fatto realizzare una ricerca che dice che in Italia comunque si gioca poco, giusto? Che se lo guardiamo da un punto di vista di opportunità, è un'opportunità. In Italia è stato sviluppato dall'Associazione Europea delle industrie che partecipano nel mondo dei videogiochi, uno studio su campioni 2000 intervistati in 8 aree geografiche europee. L'Italia giocano il 17% degli adulti contro una media europea del 25,4%. La Francia è forse quella che detiene il primato, che ha un 38% di adulti che giocano con i videogiochi. Quindi il nostro 17%, che peraltro fa anche abbassare la media europea, è un dato per noi positivo, perché ci sono ampie possibilità di crescita, soprattutto in un mercato che negli ultimi 5 anni ha, diciamo, progressivamente fatto dei numeri anche a doppia cifra di crescita ogni anno. Tranne il 2009, che a causa della recessione globale ha registrato un rallentamento, quindi un segno negativo, siamo cresciuti continuamente negli ultimi 5 anni. C'è da dire che il fatturato del 2008, che era 1.200.000.000 di euro, e il 2009 1.100.000.000 di euro, sono comunque dati, per quanto riguarda tutto il settore dell'intrattenimento, dell'entertainment, molto molto positivi. Senta, la diffusione di TV ad alta definizione, quindi capaci di visualizzare contenuti in alta definizione, è stato un elemento positivo anche per il mercato del videogioco? Assolutamente, diciamo il cuore del nostro successo è il fatto che noi riusciamo a proporre a consumatori che vanno dai giocatori anche alle famiglie, che cosiddetti casual gamers, cioè chi solo semplicemente vuole divertirsi insieme ad amici o genitori, parenti in casa, con l'innovazione tecnologica dell'alta definizione sta aumentando la verosimiglianza dei giochi e quindi sta incrementando anche il divertimento. Ora le novità presentate in queste settimane sia alla Fiera dell'E3 a Los Angeles sia qui all'IDEF a Cannes sono giochi in tre dimensioni, in 3D, sono nuovi controller con cui si può interagire con la console senza il classico controller a cui siamo abituati, ma diciamo con il movimento del corpo, sono tutte cose o di una periferica che come nel caso di PlayStation, che rintraccia il movimento anche in profondità, quindi non solo a due dimensioni, e sono comunque dati che fanno sperare in una risposta dei consumatori molto positiva. Le faccio un'ultima domanda relativa al mercato italiano. Per la parte hardware siamo importatori pressoché totali, perché nel nostro paese non viene prodotta alcuna console per videogioco. Per quanto riguarda il software, tutte le grandi case di produzione non sono italiane. Ecco, in questo caso però c'è un po' di vitalità del nostro mercato oppure poco? No, la vitalità c'è e diciamo adesso c'è una grande casa di sviluppo in Italia si chiama, anche se ha un nome inglese completamente italiano, si chiama Black Bean, e fa parte del gruppo Milestone, che è un publisher, è leader, che è la società, e loro per esempio sviluppano dei giochi internazionali, per esempio World Rally Championship, che fa il rally. Sono giochi che possono andare sviluppati in Italia in qualunque paese europeo o mondiale, quindi insomma, e non è l'unico gioco che fanno, hanno fatto anche Superbike. Stiamo cominciando a tirar fuori, e la nostra associazione, la ESVI, sta lavorando in questa direzione, a tirar fuori le eccellenze anche in questo campo, perché in un mercato che sta comunque tirando molto bene, in cui sono 11 milioni di famiglie in Italia che hanno una console per videogiochi in casa, quindi il potenziale di consumatori è molto grande, è giusto far crescere anche le società che meritatamente stanno rilasciando e sviluppando dei giochi importanti. Presidente, la ringrazio, la saluto e le auguro buon lavoro, a presto. Grazie mille, arrivederci. Secondo la ricerca che abbiamo citato anche prima parlando di videogiochi, il 55% dei genitori italiani dichiara di essere presente quando i propri figli videogiocano, ma molti genitori non sono coinvolti negli acquisti di videogiochi per i propri figli, anche se una percentuale molto alta controlla poi il contenuto dei giochi. Quindi magari non si va ad acquistare, o quando lo si acquista il gioco non si guarda il contenuto, ma poi lo si verifica dopo. Il 75% dei genitori che videogioca e il 66% di quelli che non videogiocano, quindi quelli che usano i videogiochi sono un po' più interessati. Che cosa accade invece se i figli navigano su internet? Esiste un'analoga attenzione dei genitori quando il bambino è davanti al computer collegato a internet? Forse no, e forse molti genitori sottovalutano i potenziali rischi che si nascondono in rete. Attenzione, però, a non pensare al web come ad un luogo pericoloso. Internet non è di per sé pericoloso, è una straordinaria opportunità per i piccoli, magari a dosi quotidiane limitate, una straordinaria opportunità per comunicare e per imparare, ma così come non lasciamo giocare da soli i bambini in un parco cittadino, non li lasciamo passeggiare per strada da soli la sera tardi, bene, allo stesso modo dovremmo fare un po' più di attenzione quando sono su internet. Recentemente, parlando con il bambino piccolo di un'amica, dicevo: quando col papà vai su internet, vai a vedere questo sito internet. Il sito era quello della NASA, per vedere un po' di razzi, di astronauti, eccetera eccetera. Beh, il bambino diceva: beh, non c'è mica bisogno del papà, posso anche andarci da solo. E mi sono un po' preoccupato, perché un conto è andare sul sito della NASA, un conto è finire su altri siti internet. Saluto Carla Targa di Trend Micro per parlare di alcuni pericoli e anche di alcune soluzioni che in rete si possono adottare. Benvenuta a 2024. Grazie. Voi siete una società che si occupa di, potremmo dire, security. Assolutamente sì. Un termine tecnico all'anglosassone inglese che racchiude tutta una serie di competenze sia per i consumatori finali sia per le aziende, cioè sostanzialmente di che cosa vi occupate? Trend Micro si occupa di sicurezza dei contenuti in internet per le grandi aziende, come hai anticipato, contro furto di dati, perdita di dati, accessi illeciti alle informazioni aziendali, ma anche con soluzioni rivolte ai consumatori, alle persone, agli studenti e alle persone comuni che navigano in rete per piacere, per lavoro, per studio. Quindi sicuramente i rischi sono tanti e altrettante soluzioni sono necessarie affinché si possa risolvere il problema del rischio della rete. Diciamo che per farci capire da molti, siete quelli tra quelli che un tempo facevano gli antivirus. Oggi gli antivirus sono diventati una parte di un sistema che è molto complesso, non solo per i consumatori finali, ma soprattutto per le aziende. Diciamo che occuparsi di sicurezza in internet è diventata materia molto complessa. Assolutamente sì, gli antivirus è sicuramente un termine più conosciuto, più comune a noi. Una roba vecchia. Più familiare dal punto di vista esattamente delle persone che anche in questo momento ci stanno ascoltando, per le aziende è un po' roba non vecchia, attuale, ma sicuramente una parte limitata di quelle che sono oggi le soluzioni per la sicurezza dei contenuti in internet. Sì, oggi sicuramente lasceremo perdere il mondo veramente estremamente complesso del mondo aziendale, perché le aziende oramai devono preoccuparsi della sicurezza con un approccio a 360 gradi molto complesso, con delle analisi molto molto attente. Però dicevo, voi vi occupate anche del consumatore finale, e oggi potremmo dire vi occupate anche dei genitori e di come e quando i genitori devono preoccuparsi dei propri figli. Avete commissionato una ricerca per capire qual è l'atteggiamento che i ragazzi, i bambini, ma soprattutto i genitori hanno nei confronti della rete internet. Beh, vorrei partire da un punto per far capire anche quali sono i problemi. Vi siete occupati, avete fatto realizzare questa ricerca perché oggi la rete è cambiata molto, cioè anche il nostro rapporto con la rete è cambiato molto. Assolutamente sì, è una ricerca prima di tutto su un panel di genitori e ragazzi italiano, perché molto spesso le multinazionali hanno a disposizione e condividono delle ricerche mondiali. La ricerca che 3Micro ha commissionato è stata realizzata nel mese di giugno, quindi è assolutamente recente, su 120 ragazzi dagli 8 ai 16 anni e su 90 genitori di ragazzi di questa fascia di età. Come dicevi, la fruibilità, il modo di utilizzare la rete è assolutamente cambiato. Una volta da internet ricevevamo dei messaggi, oggi li condividiamo, oggi creiamo, se prima eravamo degli utilizzatori passivi. Il web, i nostri genitori lo usavano per lavoro solamente, oggi è diventato uno strumento personale. I giovani soprattutto espongono la propria vita sui social network e appunto, come dicevamo, non si preoccupano dei rischi. Sì, è ormai diffusa la volontà di sfruttare le opportunità relazionali che il web offre, manifestando sul web stesso e sui social network, e per menzionare il più famoso Facebook, la propria vita personale, quindi informazioni personali, foto personali, le bravate che si fanno a volte con gli amici e che un domani magari ci possono compromettere in un momento di colloquio lavorativo, ad esempio. I contenuti sul web sono diventati dei contenuti misti, non più separati, quindi comunque anche difficilmente riconoscibili. Cioè, potremmo dire che le cose sono così complicate che non ci si capisce quasi più nulla, nel senso che io butto in rete un sacco di cose, che siano post, quindi cose scritte, che siano fotografie, ma su più mezzi, e questo crea una difficoltà nel controllo di quello che lascio in rete. Purtroppo molti, e lo si legge anche nella vostra ricerca, ritengono invece di poter cancellare facilmente le tracce che si lasciano in rete. C'è chi mette le fotografie, c'è chi, e sono molti ad esempio, lo si legge nei vostri dati, che danno tranquillamente la propria email. Abbiamo detto che molti sono i genitori che sottovalutano i pericoli, i rischi della rete per i propri piccoli, soprattutto per i bambini al di sotto dei 10 anni che cominciano a navigare in internet, ma a volte sono abbandonati davanti al computer. Ecco, voi che tipo di consigli date? Noi diremmo sicuramente di tenere ad esempio il PC in un'area comune. Non lasciate vostro figlio navigare da solo nella propria cameretta. Stabilire dei tempi per l'uso di internet e del PC. Tenere aggiornati i software del vostro PC di sicurezza, come dicevamo prima. Stabilire quali siti possono essere visitati insieme a vostro figlio, senza imporre qualche cosa, per quanto possibile cercando di spiegare le motivazioni che sono dietro le vostre scelte. Usare un filtraggio degli indirizzi internet, delle URL, come si chiamano, per evitare l'accesso a determinati siti. Scaricare dei software anche gratuiti, si trovano sul nostro sito, per la valutazione dei siti web. Ogni sito web è categorizzato, è classificato, ha una sorta di semaforo verde, giallo e rosso. Nel momento in cui ci si accede, questo semaforo appare, voi siete assolutamente nella condizione di poter capire se quel sito è affidabile o comunque è stato classificato come pericoloso. Discutere in merito all'inserimento delle informazioni personali che i vostri figli desiderano fare sui social network o comunque su internet. Quindi stare più spesso assieme ai figli per capire che cosa fanno, cosa che non è facile perché naturalmente io che ho 10 o 12 anni su Facebook ci voglio andare da solo. Quindi non è una cosa semplice. Non lo è, sicuramente non lo è, ma il ruolo del genitore non è un ruolo semplice, forse il lavoro più difficile del mondo. Occorre appunto una comunicazione, come dicevamo, continuativa e comunque anche qualche controllo. Bene, io ringrazio Carla Targa per essere stata con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie. E così noi concludiamo questa puntata di 2024. In questa ultima parte ci siamo messi dalla parte dei genitori, abbiamo parlato un po' meno di tecnologia, un po' più di norme comportamentali, ma purtroppo di questo si parla molto poco anche nelle scuole. Per i genitori spesso tutto ciò viene visto con un po' di difficoltà, anche perché spesso in molti casi i genitori non ci capiscono nulla di internet e di computer e quindi sono anche un po' abbandonati a loro stessi. È tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana alle 16 nel sabato pomeriggio di Radio 24. Tra poco sarà online il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie come sempre ai nostri tecnici, ad Anita Panizza in redazione. Io sono Enrico Paglierini, un buon ascolto con i nostri programmi. Noi ci risentiamo tra una settimana. You are disconnected.